Focus Economia. Sette 06, Focus Economia, un saluto e bentrovati da Vincenzo Miglietta. Puntata di Focus Economia dai tanti argomenti: parleremo di pensioni e di quanto il governo sta mettendo in cantiere in vista della legge di stabilità, e poi il rendimento del BTP decennale che scende sotto l'1,10%, segnando un nuovo minimo storico al di sotto dei livelli di marzo 2015. Cosa significa questo e soprattutto quali sono le conseguenze per chi vuole investire in titoli di Stato? Quindi torneremo anche oggi a parlare delle Olimpiadi, un taglio diverso, non prettamente sportivo. Ieri abbiamo cercato di capire quanto sia costata la macchina organizzativa di Rio, il ruolo delle tante aziende italiane. Oggi ci concentreremo invece su ciò che resta lontano dai riflettori, i quartieri più poveri e i progetti allora per portarli alla luce anche attraverso i social e le tecnologie diversi. Infatti i colossi internazionali coinvolti ed interessati. Spazio quindi, come sempre, ai mercati, oggi in gran parte positivi, con gli operatori interessati ed influenzati nelle loro scelte dai dati americani sulla produttività, scesa per il terzo trimestre di fila tra aprile e giugno. E poi interesse per i dati cinesi sull'inflazione e prezzi alla produzione, ma anche per i movimenti delle materie prime, petrolio tra tutte. In generale, i titoli dell'auto e dell'energia sono rimasti tra i più scambiati, mentre hanno sofferto le utilities e i farmaceutici, a conferma di una maggiore fiducia da parte degli operatori e della conseguente volontà di puntare su comparti meno difensivi. Uno sguardo allora insieme ai listini: in questo momento FTSE MIB più 0,34%. I migliori e i peggiori del listino, sempre per quanto riguarda il FTSE MIB. Tra i migliori troviamo CNH Industrial, Mediobanca, Banca Popolare Emilia Romagna, Monte dei Paschi e Saipem. Tra i peggiori Popolare Milano, Banco Popolare, A2A, Mediaset e Telecom Italia. Questo per quanto riguarda dunque i migliori e i peggiori del FTSE MIB. Gli altri listini europei: in questo momento il DAX francese, Francoforte più 1,96, FTSE 100 Londra più 0,73, CAC Parigi più 1,09%, Wall Street in terreno positivo, Dow Jones più 0,24, Standard & Poor's più 0,25, euro su dollaro 1,111, euro su sterlina 0,8553. Ricordo poi che prosegue sul Sole 24 Ore l'approfondimento di Investire con il Sole, è dedicato ai titoli del settore industria e auto. Infatti l'appuntamento di domani della guida pratica Investire con il Sole, che ogni giorno offre ai risparmiatori uno strumento per analizzare i conti semestrali delle società quotate, confrontando in questa fase di forte volatilità dei mercati l'andamento reddituale e la forza patrimoniale delle grandi società di piazza affari e delle principali borse europee. Allora domani sul Sole 24 Ore potete scriverci al 349-238-6 666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di Radio 24. Passiamo ora alle notizie in breve. Breve, che apriamo con le materie prime, oro e petrolio. Allora, l'oro più 0,4% a $1,339 l'oncia, per quanto riguarda il petrolio più 0,5% a $43,2 il barile. L'economia internazionale, parliamo della Cina. I dati sull'inflazione confermano un miglioramento delle condizioni del settore manifatturiero e una stabilizzazione dell'economia. Secondo l'ufficio di statistica, i prezzi alla produzione sono scesi a luglio dell'1,7%, il ribasso più basso in almeno 2 anni. Il calo è inferiore alle previsioni degli analisti, che davano meno 2%. I prezzi al consumo sono invece saliti dell'1,8%, in linea con le attese, ma sotto il target del 3% fissato dal governo. L'indice dei prezzi prezzi alla produzione in calo dal 2012 ha rallentato la sua caduta a partire dallo scorso dicembre e, secondo un economista di JP Morgan citato da Bloomberg, potrebbe tornare a crescere entro la fine dell'anno. Gli Stati Uniti, ora la produttività, lo abbiamo anticipato, dei lavoratori americani cala per il terzo trimestre consecutivo, scendendo dello 0,5% nel periodo aprile-giugno. Il dato è sotto le attese degli analisti, che scommettevano su un aumento dello 0,4%. Il costo del lavoro sono saliti del 2%. Ora in Russia, tra una notizia tra l'economia e la criminalità, tra virgolette, l'attuale vice governatore della Banca Centrale Russa, Aleksandr Turchin, dirigeva il riciclaggio di denaro sporco del gruppo criminale Taganskaya in Spagna, lo scrive Bloomberg citando un rapporto riservato della Guardia Civile Spagnola. Ricorderete tutti quanti lo scandalo Volkswagen, è passato praticamente un anno. Ieri, per quanto riguarda l'Italia, l'antitrust ha inflitto una sanzione di 5 milioni di euro a Volkswagen per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta. La maximulta, pari al massimo edittale, arriva per la commercializzazione in Italia di auto diesel omologate attraverso il software in grado di alterare i dati dei test sulle emissioni, che è al centro dello scandalo Dieselgate. E proprio mentre l'antitrust italiano annuncia la multa da 5 milioni di euro a Volkswagen per lo scandalo emissioni, i media tedeschi segnalano la decisione di un tribunale che spianerebbe la strada ad un processo pilota in cui la casa automobilistica di Wolfsburg rischia di pagare quasi 4 miliardi per la stessa questione. C'è la replica però di Volkswagen Italia e di Volkswagen AG Group, che ritengono che la decisione dell'antitrust di infliggere alla casa tedesca una multa da 5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette presenti fondati motivi di impugnazione e pertanto presenteranno ricorso al tribunale amministrativo. Adesso ora un po' di numeri per quanto riguarda l'economia italiana. Il rendimento del BTP decennale scende sotto l'1,10% nei primi scambi, segnando un nuovo minimo storico al di sotto dei livelli di marzo 2015, con spread sul Bund tedesco a 118. Gli acquisti sul benchmark italiano tengono nonostante le difficoltà del settore bancario e la messa sotto osservazione per possibile downgrade del rating sovrano italiano da parte dell'agenzia canadese DBRS, annunciata venerdì. Il fisco: cresce il numero di contribuenti che si affidano ai CAF, centri di assistenza fiscale, per la dichiarazione dei redditi. Dai dati dell'ultima campagna conclusasi lo scorso 22 luglio, sono oltre 17,6 milioni i lavoratori dipendenti e pensionati che nel 2016 hanno scelto i CAF per l'elaborazione e l'invio del proprio modello 730, con un incremento di oltre 300.000 dichiarazioni rispetto all'anno precedente. Secondo la consulta nazionale CAF, sono circa 300 milioni i documenti fiscali che i centri hanno acquisito e controllato nella fase di elaborazione. Ora la Banca d'Italia, un argomento questo attualissimo: le sofferenze del settore bancario tornano a scendere dopo tre mesi consecutivi in rialzo, collocandosi a 197,9 miliardi a giugno dai 200 miliardi del mese precedente, lo rende noto Banca Italia nel supplemento al bollettino statistico su moneta e banche. Il tasso di crescita delle sofferenze rallenta all'1,1% da 3,2%, 12,5% da 13,6%, tenendo conto di cartolarizzazioni e altri crediti ceduti cancellati dai bilanci bancari. Le sofferenze al valore di realizzo scendono a 83,7 miliardi a giugno da 84,9 miliardi di maggio. Banche ed occupazione, una nota dolente: in tre anni, dal 2013 al 31 marzo 2016, dai gruppi bancari italiani sono usciti 11.988 lavoratori e altri 16.109 sono pronti ad uscire entro il 2020 in base agli accordi sindacali sugli ultimi piani industriali, di cui quasi 9.000 potenzialmente prepensionabili. A fare i conti è la FABI, con il segretario generale Lando Maria Sileoni, che sottolinea come tra il 2009 e il 2016 siano stati tagliati 3.972 sportelli nei 5 maggiori istituti: Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, Banco Popolare e UBI. Dal 2009 al 2015 sono state chiuse o cedute 4.439 filiali. Ci avviamo rapidamente al nostro primo argomento. Altre due notizie: PIL, inflazione e disoccupazione entrano tra gli interessi degli italiani. Dopo anni di crisi, quasi 9 maggiorenni su 10 ritengono importante essere informati sul loro andamento e 7 su 10 sono in grado di indicare un valore per l'andamento del prodotto interno. Secondo il Focus Istat, la conoscenza dei dati economici da parte dei consumatori italiani. Al tempo stesso, la grande maggioranza, l'81,4%, dice di utilizzare poco o per niente i dati economici al momento di prendere decisioni importanti in materia di studio, lavoro, gestione del risparmio e acquisti, e uno su due boccia l'informazione economica dei media per qualità e affidabilità. Solo l'11,6% la trova buona. Ci sono comunque passi avanti: le persone in grado di esprimere un valore sull'andamento del PIL aumenta in modo consistente fino al 71,8% dal 63,7% del 2015 e si dimezza da 0,5 punti a 0,2 la distanza tra l'opinione media espressa e la misura ufficiale. Immobiliare. Dopo l'amore per la Toscana, ora i paperoni britannici guardano con interesse al mare italiano e sono disposti a spendere fino a 10 milioni di euro per l'acquisto di immobili a Taormina, Portofino o Capri. È quanto emerge da una ricerca di immobiliare.it e luxuryestate.com. Le richieste provenienti dal Regno Unito e legate ad immobili di lusso italiani nell'ultimo anno sono notevolmente cresciute, più 15%, con un cambio di destinazione e budget. E questa era la nostra ultima notizia. In breve ci fermiamo qui e passiamo al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento che dedichiamo alle pensioni, o meglio al cantiere delle pensioni, e lo facciamo grazie al contributo del collega del Sole 24 Ore Davide Colombo, che è qui con me negli studi di Roma di Radio 24. Buon pomeriggio Davide. Buon pomeriggio a voi, ciao Vincenzo. Sbaglio a dire che è un cantiere o c'è di più, nel senso che sono buttate giù delle linee guida importanti? Direi che la parola cantiere è sempre appropriata quando si parla di pensioni, perché le misure che sono messe in campo, che sono allo studio, che verranno inserite nella legge di bilancio, sono diverse, hanno logiche diverse, che convergono verso un obiettivo però comune, che è quello di aumentare la flessibilità di pensionamento senza toccare i requisiti di fondo del sistema contributivo corretto nel 2011 con la riforma Fornero in un contesto di particolare criticità per i conti pubblici. Diciamo che si parla di almeno 4 canali misure su 4 canali per aumentare questa flessibilità in uscita. Quello generalizzato è l'ormai famosa APE, ne abbiamo raccontato tutti i contenuti sul nostro giornale nelle ultime settimane. Da ultimo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini ne ha dato alcuni dettagli in più, riferito in particolare alle platee che potrebbero beneficiare. Si parla di 350.000 lavoratori nei primi 3 anni. Ripercorriamole, questa che è sempre utile. Sì, si tratterebbe, come dire, il target di riferimento sarebbero i nati nei primi anni 50, tra il 51 e il 53. Diciamo che l'obiettivo è di consentire un anticipo fino a 3 anni e 7 mesi, 3,7, per consentire sostanzialmente a chi ha 63 anni secchi e 20 anni di contributi di appunto optare per un anticipo che è finanziato da un prestito bancario, che è il quale prestito bancario verrebbe poi rimborsato nei 20 anni di pensione successiva, godendo di una detrazione fiscale su questo rimborso che è graduata a seconda dei profili dei beneficiari, quelli più meritevoli, nel senso che sono in condizioni di reddito o di lavoro particolarmente certo. Precarie, avrebbero una, diciamo, detrazione molto pesante, quasi totale, mentre invece salendo per le altre tipologie si può arrivare a una sorta di penalizzazione, chiamiamola così, anche se non è correttissimo, cioè il costo, diciamo, di questo rimborso, che può arrivare fino al 3-5% dell'assegno pensionistico, che sarebbe stato quello invece preso dopo i 3 anni e 7 mesi in più di lavoro. Questo, diciamo, è il canale principale, questa APE, anticipo pensionistico, ma ce ne sono altri parimenti importanti. Dal mio punto di vista, per il picco di esperienza che ho su questo campo, io penso che anche gli altri canali avranno un tiraggio, cioè produrranno dei flussi di uscita molto importanti. Il primo è la previsione di rendere gratuite le ricongiunzioni, cioè i versamenti effettuati su diverse gestioni INPS, avendo lavorato in comparti o in settori diversi nella vita, e la gratuità di queste ricongiunzioni anche per arrivare al requisito della pensione anticipata, per esempio, quindi anche per arrivare a traguardare l'obiettivo per l'APE, certo. Sarà possibile. Oltre a questo ci sono due grosse semplificazioni, così sono state annunciate, che riguarderebbero i lavoratori esposti ad attività usuranti e i cosiddetti lavoratori precoci, cioè coloro che hanno dei versamenti contributivi prima dei 18 anni. Per esempio, per questi ultimi si pensa di riconoscere un bonus contributivo di tipo fiscale, quindi una maggiorazione sui contributi versati in quel periodo, diciamo, di lavoro giovanile, con dei paletti. Secondo le ultime ipotesi, questi paletti sono che tu devi aver lavorato almeno 52 o 104 settimane, cioè almeno un anno o 2 anni prima dei 18 anni per essere effettivamente considerato un lavoratore precoce, e certo. Quindi beneficiare di un bonus che teoricamente dovrebbe consentirti di arrivare più velocemente all'obiettivo di 41 anni di contributi complessivi e quindi andare in pensione anticipata, a questo punto senza alcuna penalizzazione, perché ti ha riconosciuto per l'appunto un bonus. L'ultimo canale, ne accennavo prima, è quello degli usuranti. Anche questo è una, diciamo, l'obiettivo non è tanto aprire la platea, ma per esempio semplificare alcuni aspetti che hanno reso fruibile uno strumento che già c'è. Per esempio, attualmente le norme prevedono che un lavoro usurante è tale se nei 7 anni degli ultimi 10 hai fatto effettivamente un'attività classificata come questa, certo. In particolare anche l'ultimo anno di lavoro prima del pensionamento deve essere in un impiego pesante, usurante. Ecco, si pensa di togliere questo paletto, cioè consentire che l'ultimo anno non sia necessariamente di impiego usurante, anche perché realisticamente a quell'età può, probabilmente in quasi tutti i contesti, chi può riesce, certo. Nell'organizzazione del lavoro di molte aziende manifatturiere, ma anche in contesti, diciamo, di servizio, uscire dalle attività più pesanti proprio per fare, certo, l'ultimo anno in una condizione migliore. Ecco, magari levando quel paletto, questa è una delle ipotesi, si consentirebbe a normative sostanzialmente invariate un flusso maggiore. Ecco, l'insieme di questi 4 canali dovrebbe garantire una maggior flessibilità in uscita, contenendo al massimo, diciamo, l'impatto sui conti pubblici, perché il vero problema è poi questo. E questo è il nodo dolente, e infatti arriviamo alle cifre. Si sta parlando in questi giorni dei contenuti e ce le hai ricordati, Davide, in maniera perfetta, però poi le cifre, e qui si dividono le opinioni tra il governo e soprattutto i sindacati. Notizia di ieri è che per tutte queste misure vi sarebbero al massimo un miliardo e mezzo, e i sindacati hanno detto subito non sono sufficienti, ce ne vorrebbero almeno 2 miliardi e mezzo. Dov'è la verità? La verità in questi casi, come si dice sempre, la vedremo a settembre, quando il governo metterà le carte sul tavolo. Diciamo, il miliardo e mezzo è una cifra circolata da ambienti governativi e di maggioranza. 2 miliardi e mezzo è la richiesta minima che chiede il fronte sindacale, in particolare la UIL, che ha molto dettagliato e puntualizzato questo dossier. Bisogna tenere conto che effettivamente, oltre alle misure di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè di allargamento di apertura delle maglie per una maggiore flessibilità in uscita, si aggiungerebbero almeno una misura di rafforzamento delle pensioni vigenti al di sotto di una certa soglia. Il governo sta pensando a un ampliamento della platea della 14ª mensilità per chi già la percepisce, oltre 7.580 euro circa lordi netti all'anno, oppure un allargamento della no tax area. Allora, queste misure naturalmente nel loro insieme hanno una un altro impatto, certo. Siamo lontani, molto lontani dagli costi delle ipotesi di riforma che hanno presentato per esempio il presidente dell'INPS Tito Boeri, per esempio il presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano negli ultimi due anni. L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha cifrato l'onere di quei due schemi di intervento di flessibilità maggiorata, il primo in circa 2,8 miliardi nei primi sette anni di applicazione, quella di Boeri IMSS, quella di Damiano in circa 8 miliardi sempre nei primi sette anni cumulati di applicazione. Si tratta di, appunto, nell'un caso e nell'altro di una maggiore spesa in termini di prestazioni monetarie costante, per cui si tratterebbe di interventi che aumentano la spesa, l'aggregato della spesa per pensioni. Qui si cerca di ragionare su una, come dire, una esposizione minore, perché il governo ha annunciato che nella prossima legge di bilancio vuole inserire misure anche di altro tipo a sostegno della crescita. La congiuntura che stiamo attraversando non è ottima, lo dice anche adesso, il viceministro Morando. Vedremo adesso, certo. Il dato a venerdì, il dato dell'Istat sul secondo trimestre, quindi diciamo che i margini di finanza pubblica e quelli macroeconomici purtroppo non sono ampi, e in questi margini non ampi bisognerà fare delle scelte. Certo, come sempre. Fare delle scelte e soprattutto, allora Davide, quale sarà lo strumento, il contenitore che sarà utilizzato dal governo per apportare queste modifiche alla legge Fornero? Andrà tutto in legge di stabilità, oppure si diceva anche che per quanto riguarda la sola APE si potesse anticipare con un altro strumento già a settembre-ottobre? Sì, dunque sicuramente le misure vanno in legge di bilancio. Lo strumento a cui fa riferimento è stato evocato dal sottosegretario Nannicini nella nostra intervista di domenica scorsa ed è riferito all'ipotesi di un decreto che in settembre dovrebbe essere varato per innescare la procedura che prevede appunto il meccanismo di certificazione INPS, il rapporto con le banche e le assicurazioni che finanziano e assicurano l'anticipo APE. Per quale ragione si farebbe un decreto a settembre? Per consentire che il sistema sia pronto dal primo gennaio, cioè evitare che si normi una nuova misura la cui attuazione, la cui implementazione poi prende i primi 4-5 mesi del prossimo anno. Per esempio, immagino la logica sia quella di evitare quello che è accaduto quest'anno per il part-time agevolato. Certo. Abbiamo visto che il decreto del Ministero del Lavoro è arrivato praticamente in giugno, in questo periodo estivo vediamo la pubblicità sulle principali emittenti pubbliche televisive di uno strumento che entra nella fase operativa con circa 6 mesi di ritardo. Ecco Davide, un altro dubbio che abbiamo raccolto tra i nostri ascoltatori in questi giorni è che il famoso APE e quindi l'anticipo pensionistico possa diventare una sorta poi di debito per il lavoratore ma anche per la sua famiglia. Vogliamo fare chiarezza su questo? No, dunque la titolarità dell'anticipo, quindi del debito, questo prestito bancario è a carico del pensionato. C'è una assicurazione sulla ipotesi di premorienza del beneficiario, quindi la famiglia, gli eventuali beneficiari della pensione di reversibilità ne sarebbero esclusi. Diciamo che si tratta di un meccanismo che non ha precedenti, stiamo parlando di una sorta di prestito privato a dei lavoratori che vogliono accedere prima al primo pilastro, cioè alla pensione pubblica. È uno schema innovativo fatto perché bisogna fare di necessità virtù, rispondere a una domanda di maggiore flessibilità che viene dal mondo del lavoro, dal mondo delle imprese, dal mondo dei lavoratori. tenendo conto che appunto i limiti di finanza pubblica sono quelli che sono e tenendo conto che l'aggregato della spesa per pensioni è il più importante della spesa corrente, stiamo attorno al 15% del prodotto, è sotto controllo, è stato messo sotto controllo dalle riforme degli ultimi anni, ma è pur sempre uno dei più alti. Purtroppo abbiamo una demografia che lavora contro di noi, quindi abbiamo un allungamento della vita attesa e quindi abbiamo un aggregato di spesa che va tenuto sotto controllo. Per questa ragione questo è un tentativo di introduzione in chiave, chiamiamola privatistica, ma fino a un certo punto c'è una garanzia pubblica, c'è una detrazione, un meccanismo di detrazione, c'è la certificazione INPS che vale, se lo schema non cambierà il lavoratore che vuole beneficiare dell'APE avrebbe come unico interlocutore l'INPS, e quindi diciamo tutto quanto avviene all'interno di un contesto di certificazione pubblica. Il coinvolgimento bancario assicurativo consente appunto di fare sì che questo ponte finanziario funzioni e consenta appunto dei ritiri anticipati. Vedremo se funzionerà davvero, e soprattutto vedremo se sono realistiche anche le platee che sono state indicate, perché un flusso di 150.000 lavoratori circa in questo intervallo pensando alle coorti di lavoratori nati tra il 1951 e il 1953 è una cifra consistente, avrà comunque un buon impatto, vediamo come andrà a finire. Davide, rapidissimo, ti chiedo solamente questo, ricordiamo che l'obiettivo è quello di superare le rigidità della legge Fornero, quindi far andare delle persone che, qualora lo vogliano, prima in pensione e dall'altra parte occupare quei posti che restano vacanti con dei giovani, quindi è questo il doppio obiettivo da parte di Palazzo Chigi. Sì, diciamo che su questo scambio diretto, posti di lavoro che si liberano, nuove assunzioni di giovani, il primo a non crederci, lo ha detto in vari contesti, è lo stesso sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nicini, che è un giovane economista che su questo tema ha manifestato le sue perplessità, e sono perplessità diffuse. Diciamo che in linea generale lo scambio un pensionato che esce, un giovane che entra funziona fino a un certo punto, o forse non funziona. Tutto da dimostrare. Bisogna tener conto che effettivamente noi siamo in una congiuntura particolare, siamo usciti da una lunga fase recessiva, abbiamo un tasso di disoccupazione ancora molto elevato, e quindi potrebbe essere anche che invece in un contesto così particolare un qualche tipo di movimento ci sia. Perfetto, grazie a Davide Colombo. Noi ci fermiamo qui, spazio al meteo. Focus Economia. Le 17:34, di nuovo insieme Focus Economia, parliamo dei titoli di Stato, ne parliamo perché il rendimento del BTP decennale è sceso sotto l'1,10%, segnando un nuovo minimo storico al di sotto dei livelli di marzo 2015, ne parliamo con il collega Moria Longo del Sole 24 Ore, in collegamento dagli studi di Milano. Moria, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Che significato ha questa discesa del rendimento del BTP decennale? Ma è sicuramente una notizia positiva, perché più scende il rendimento più lo Stato risparmia, comunque ha minori oneri sulle future emissioni di titoli di Stato, quindi questo è positivo. Però è un motivo principalmente tecnico. Allora, i rendimenti dei titoli di Stato stanno scendendo molto, ormai scendono da tantissimo tempo, in gran parte perché la Banca Centrale Europea ha varato moltissime manovre molto espansive, ha portato i tassi a zero, addirittura certi tipi di tassi, certo, come quelli sui depositi sotto zero. Questo ha abbassato tutti i tassi interesse, inclusi quelli dei BTP. Per di più, l'8 settembre la BCE si riunirà di nuovo e tanti si aspettano che possa fare ancora qualcosa di più, cioè che calibri in maniera diversa il quantitative easing, che è questa politica monetaria con cui la BCE da un lato compra titoli di Stato e dall'altro inietta liquidità, stampa moneta e inietta liquidità sul mercato. Ebbene, attualmente compra titoli di Stato in base alle dimensioni di ogni paese, quindi compra più titoli di Stato tedeschi che italiani, più titoli di Stato francesi che italiani, più italiani che spagnoli, cioè in base alle dimensioni del paese, o meglio alla quota che ogni paese mette nella Banca Centrale Europea. è possibile che l'8 settembre cambi questa cosa e quindi usi un altro criterio, e questo potrebbe avvantaggiare i titoli di Stato italiani, perché attualmente la Banca Centrale Europea, come ho detto, compra più Bund tedeschi, quindi titoli tedeschi, che titoli italiani. Potrebbe magari fare il contrario da settembre in poi, perché ormai i titoli tedeschi stanno quasi finendo, non ce ne sono più molti da acquistare. Quindi questa cosa sta sostenendo i titoli di Stato. Ovviamente sapete che quando c'è domanda di titoli di Stato salgono i prezzi e di conseguenza scendono i rendimenti, che toccano i minimi storici. Per di più, in questo periodo di agosto, come è noto, ci sono pochi operatori, per cui tutto è molto più tranquillo, molto più ovattato in un certo senso. E per di più il Ministero del Tesoro alcune aste, quindi ha collocato meno titoli di Stato rispetto ai mesi passati, proprio perché è agosto. Per di più ci sono stati molti titoli in scadenza che sono scaduti, sono stati rimborsati agli investitori, quindi gli investitori hanno più liquidità, meno offerta dal tesoro, in attesa di una manovra magari nuova della BCE l'8 settembre comprano titoli di Stato anche italiani, quindi ripeto, i prezzi salgono, i rendimenti scendono. Quindi la buona notizia è sicuramente che gli interessi per quanto riguarda lo Stato che paga sul debito sono inferiori, quindi la stessa cassa dello Stato ha un risparmio, ma questi movimenti attorno al BTP decennale, Moria, sono effettuati solamente dai grandi investitori o possono questi ragionamenti che tu hai fatto interessare anche il piccolo investitore, il piccolo risparmiatore? Ma ormai i titoli di Stato interessano sempre meno ai piccoli risparmiatori, perché i BOT, che sono i titoli di Stato tradizionali, per i piccoli risparmiatori, gli italiani erano famosi come i bot people, il popolo dei certo. Esattamente, ormai i bot hanno addirittura rendimenti negativi, quindi comprarli significa matematicamente perderci dei soldi, quindi non sono più non hanno nessun tipo di appetibilità per i risparmiatori. Un BTP decennale, quindi, che ha una durata più lunga, ha un rendimento ancora positivo, circa l'1,13%, qualcosa all'incirca, però significa impegnare i propri soldi per 10 anni per un tasso di interesse del poco più dell'1%, quindi non è qualcosa anche qui di particolarmente appetibile per i piccoli, è molto più appetibile per i grandi investitori, che fanno ragionamenti completamente diversi, anche di trading quotidiano, comunque ragionamenti completamente diversi rispetto al piccolo risparmiatore. Ecco, diciamo che il titolo di Stato per il piccolo risparmiatore ormai ha perso molto dell'appeal che aveva in passato. È pur vero però, Moria, che mantiene la sicurezza del rendimento, seppur minimo, rispetto alla volatilità degli ultimi mesi dei mercati? Assolutamente sì, io parlavo in termini generali, certo, ogni risparmiatore deve guardare la certo. propria voglia di rischiare, la propria voglia di investire, la propria voglia di sperimentare. Ovviamente se non ha le capacità per farlo deve affidarsi a dei professionisti, perché questa è la prima cosa, perché il fai da te molto spesso porta più fregature che benefici. Per cui ognuno guarda se stesso. Se uno si ritiene di voler rischiare pochissimo e guadagnare pochissimo, assolutamente fa benissimo a farlo. Quindi ripeto, dipende ognuno dalla propria propensione al rischio. Certamente. Due domande, Moria. Ci siamo dimenticati del 2011, quando ogni giorno parlavamo del Bund tedesco, del raffronto anche con il Bund tedesco. Quindi vorrei sapere su quel fronte lì, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, come sta andando e perché non ne abbiamo più parlato. E dall'altra parte invece, notizia, forse aspetto più importante del BTP decennale, questa sua discesa del rendimento può influire positivamente o negativamente invece su tutto ciò che è il movimento attorno alle banche in questo momento per quanto riguarda le sofferenze? Allora, la seconda risposta è no, poi ti spiego perché e ci entro dopo nel dettaglio. La prima, secondo me, la prima risposta invece è perché non si parla più del famoso spread, perché è cambiato il mondo. Lo spread era un tema in quegli anni lì, 2011-2012, perché l'Europa era percepita dagli investitori in sfaldamento, in distruzione. Certo. Si parlava della Grecia che poteva uscire dall'Unione Europea, dall'euro e quindi altri paesi. Allora era ovvio che gli investitori in quel momento lì preferivano comprare titoli di paesi che, se si fosse sfaldato l'euro, avrebbero avuto valute forti. Quindi il Bund tedesco significava implicitamente comprare marchi tedeschi. comprare un BTP italiano significava implicitamente comprare lire italiane. Dunque, in una ottica di possibile disgregazione dell'euro, è ovvio che uno a parità di condizioni, a parità di tutto, preferisce il proprio investimento mettere in una valuta che verosimilmente si rivaluta, si apprezzi, piuttosto che una valuta che verosimilmente si svaluta. E quindi questo creava una fortissima fuga di capitale dai paesi del sud verso i paesi più forti, in primo luogo la Germania. Certo. Questo meccanismo perverso è stato spezzato in maniera definitiva dalla Banca Centrale Europea nel luglio del 2012, quando Mario Draghi pronunciò le famose parole che sono rimaste nella storia della politica monetaria: la BCE farà qualunque cosa per evitare appunto la disgregazione dell'euro. Da allora la BCE in effetti ha fatto tantissime cose, ormai compra direttamente titoli di Stato stampando moneta, e quindi i titoli di Stato sono ormai completamente, passatemi il termine, drogati da una politica monetaria che appunto li sta comprando. Cioè la BCE è il più grande acquirente di titoli di Stato di tutti i paesi europei attualmente, e quindi questa cosa ha completamente segregato i titoli di Stato da qualunque concetto di rischio Stato, rischio valuta, tutto il resto è stato accantonato. Quindi quei rischi lì, appunto per esempio rischio Italia e così via, non sono più inseriti nei prezzi dei BTP, certo. Però perché c'è un acquirente grande, gigantesco come la BCE, che stampa denaro, che li compra. Però non è vero, che questo non significa che non ci sia ancora una percezione sul mercato del rischio Italia. Questa percezione si vede in titoli che non sono i BTP, ma sono i titoli bancari, per esempio. Attualmente, se un investitore internazionale vuole disimpegnarsi dal rischio Italia, non vende i BTP, perché i BTP sono comprati dalla BCE, sono drogati, e quindi è inutile andare contro, nessuno va contro una banca centrale, ci perdi. Vendono la cosa più simile ai BTP, la cosa più legata all'economia italiana, alla congiuntura, la cosa più legata al rischio paese, cioè le che banche. Sono le banche, certo. Quindi certo. Uno dei motivi, non l'unico, perché le banche crollano in borsa per tantissimi motivi, molti dei quali strutturali. Ma insieme ai motivi strutturali come i crediti in sofferenza, c'è un motivo tecnico che sta abbattendo le banche italiane in borsa molto più delle banche di altri paesi. Ed è il rischio paese, cioè il concetto di rischio paese, soprattutto dopo Brexit. Molti investitori che volevano appunto disimpegnarsi sull'Italia andavano al ribasso contro le banche, perché non potevano più farlo contro i BTP. E invece, Moria, brevemente, le sofferenze bancarie non hanno effetti, non subiscono effetti dal BTP decennale sotto l'1,10%. Magari le subissero, perché avremmo risolto probabilmente il più grande problema attuale delle banche, quindi dell'economia. Assolutamente no, le sofferenze italiane sono purtroppo molto grandi, 200 miliardi di crediti in sofferenza lordi nel bilancio delle banche italiane, che diventano 350-360 miliardi se si mettono anche i crediti deteriorati, ma non troppo andati a male. Questo è il grosso problema delle banche italiane. Un problema perché se la banca ha una zavorra gigantesca nei propri bilanci, non ha sufficiente disposizione di capitale per erogare nuovo credito. Uno dei motivi, secondo me, è uno dei motivi fondamentali per cui l'Italia negli ultimi anni ha avuto il credit crunch, cioè la contrazione del credito a imprese e famiglie, è perché le banche non hanno mai risolto il problema, e non hanno mai affrontato, né le banche, né lo Stato, né le autorità, il problema dei crediti deteriorati che si accumulava nei loro bilanci, facevano finta di niente, finta di dire che era un problema, però in realtà questa cosa impediva alle banche di erogare credito. Questo problema va risolto, perché altrimenti è un problema per l'economia stessa. Non è il concetto di aiutare le banche, salvare le banche, il concetto è di salvare attraverso le banche l'economia italiana, cioè le imprese e le famiglie. Grazie allora, grazie a Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per le strade. Focus Economia. Focus Economia che riprendiamo dalla giornata in borsa. Ringrazio Guido Maurino, l'ho fatto attendere, collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Guido, scusami per il ritardo. Ci mancherebbe. Partiamo subito dal FTSE MIB, che leggo più 0,31% in chiusura. Sì, oggi è stata una giornata ancora positiva per le borse europee. Milano con il più 0,31% è stata fra quelle che hanno guadagnato di meno oggi, mentre è da segnalare le performance di Francoforte, più 2,5%, Parigi più 1,19% e anche Londra attorno allo 0,7%. Cos'è successo a Milano? Sono andate Meno bene le banche, alcune banche che avevano corso nell'ultimo periodo, nelle ultime 5 sedute, hanno avuto delle prese di beneficio, questo perché appunto nelle ultime sedute avevano corso abbastanza, avevano guadagnato complessivamente circa l'8% e oggi alcuni operatori hanno preferito prendere beneficio, quindi vendere e portare a casa i guadagni, e questo l'abbiamo visto soprattutto su alcuni titoli come alcune delle banche popolari, fra cui BPM meno 1,67%, che è stata la peggiore del listino principale del FTSE MIB, ma anche in tono più lieve su UbiBanca meno 0,17%, Banco Popolare meno 1,89%, ha fatto peggio anche sul finale di BPM, mentre altri istituti di credito si sono mossi o attorno alla parità oppure hanno guadagnato leggermente. Ecco, Guido, caso a parte Monte dei Paschi, che risale leggermente dopo che Atlante 2 ha centrato obiettivi di raccolta e può aiutare dunque la banca senese? Sì, perché appunto Monte dei Paschi ha guadagnato l'1,28%, gli operatori oggi segnalavano questo aspetto, Atlante 2 ha raccolto 1,75 miliardi fino ad oggi, si prepara un primo closing a fine settembre attorno ai 2,5-3 miliardi di euro, contando che l'intervento che Atlante 2 dovrà fare per mettere in sicurezza i crediti non performanti di MPS è attorno al 1,6 miliardi, sostanzialmente si può dire che Atlante 2 sia nelle condizioni per poter aiutare Monte dei Paschi già oggi, e per cui per aiutare l'Istituto Senese a risolvere il suo problema sulla cessione di crediti non performanti. Ecco, sin qui dunque Monte dei Paschi di Siena, leggo tra i titoli che hanno avuto la performance tra le migliori, Mediobanca, sempre su speculazioni, voci di speculazioni. Sì, è sempre questa, possiamo chiamarlo un piccolo tormentone estivo, no? Sulle mosse di Bolloré. Bolloré è azionista di Mediobanca, un azionista forte. Negli ultimi giorni si è scritto che potrebbe cercare di rafforzarsi in Mediobanca e in questo modo guidare Generali, visto che il principale asset di Mediobanca è proprio la sua partecipazione in Generali, verso un matrimonio con la compagnia francese AXA. Questo fa sì che si muova Mediobanca sull'ipotesi di un rafforzamento di Bolloré e Mediobanca guadagna il 3,55%. A sua volta si muove anche Generali sulla speculazione di un possibile una possibile alleanza con AXA, e anche Generali ha guadagnato l'1,17% e si è riportato sopra i 12 euro per azione, un valore che non vedeva da fine giugno, dal post referendum sulla Brexit. Quindi movimenti importanti per gli assicurativi, bene a Anima che sale oltre le attese la raccolta a luglio. Sì, ha fatto molto bene la raccolta a luglio, perché al netto del fatto che è andato in scadenza il mandato di gestione con MPS, quindi ha portato una raccolta, mancata raccolta per 1,5 miliardi, al netto di questa posta straordinaria che comunque era attesa, la raccolta è stata positiva per oltre 540 milioni, contiamo che è più del doppio rispetto alla raccolta di giugno e questo ha spinto il titolo, che ha guadagnato 2,54%, perché gli analisti comunque restano positivi sul titolo, sono convinti che potrà fare bene anche per il resto dell'anno. Grazie a Guido Maurino, collega di Radio Core Il Sole 24 Ore, e noi andiamo a cambiare argomento. Cambiamo argomento e parliamo del Brasile, l'altra faccia delle favelas, parliamo dunque delle Olimpiadi sotto un altro aspetto. Abbiamo anticipato, abbiamo iniziato ieri a parlare delle Olimpiadi non sotto l'aspetto sportivo, ma sotto, guardando, cercando di andare oltre le medaglie, quindi i costi delle Olimpiadi e anche le aziende italiane impegnate in Brasile. Oggi invece con il collega Roberto Darin del Sole 24 Ore, che saluto. Ciao Roberto. Ciao. anche Roberto in collegamento dalla sede di Milano. Andiamo a parlare forse degli aspetti che non hanno tanto le luci delle telecamere e i flash dei fotografi. Parliamo delle favelas, prendiamo spunto da che cosa? Arriva direttamente dalle strade della Cidade de Deus, il primo oro del Brasile ai Giochi di Rio. Voglio essere un esempio per tutti i bambini della nostra comunità, ha detto Raffaela Silva, che ha battuto nella finale del judo 57 kg un atleta della Mongolia. A 5 anni decise Raffaela di passare dalla strada, la rua che nelle favelas è diventato un marchio indelebile accanto al sostantivo Meninos, al tatami, che sappiamo essere il tappeto del judo. La fortuna volle che la palestra si trovasse nel suo stesso isolato. Allora Roberto Danin, perché prendiamo spunto dalla vicenda di Raffaela e la prendiamo come esempio di riscatto della favelas, ma la accostiamo anche a nomi come Amnesty International o Google? Sì, questa di Raffaela Silva è evidentemente una storia bellissima, una storia emozionante e una storia di riscatto sociale indubbiamente, perché questa atleta di 24 anni che alle Olimpiadi di 4 anni fa a Londra venne squalificata per un colpo proibito, venne poi insultata pesantemente dai social network e quindi lei addirittura pensò per qualche settimana di abbandonare lo sport agonistico. Invece questa volta ce l'ha fatta, ma racconta anche tanto altro della favela che molto spesso viene associata unicamente al degrado, alla prostituzione, alla violenza. Così non è. Le favelas di Rio producono anche altro. Innanzitutto c'è una classe media nelle principali favelas, tra queste anche senz'altro Cidade de Deus, che è la favela da cui proviene Raffaela Silva. Certo. Ci sono favelas dove, tanto per cominciare, sono state avviate delle start-up, delle banche, quindi la miseria non è solo il comune denominatore, ormai sono delle società articolate e con una loro, come una vera e propria città brasiliana o latinoamericana, dove comunque c'è una stratificazione sociale, ci sono i miserabili, i poveri, i ricchi e la classe media. Ecco, tutto questo viene ricordato ad esempio con degli episodi interessanti. BlackBerry e iPhone ad esempio sono venduti regolarmente, ci sono negozi con prodotti di Dolce Gabbana, di Lacoste, Ralph Lauren, quindi l'idea che sia un'omologazione alla miseria, ecco, questa è assolutamente superata dalla realtà. Non solo, negli ultimi anni addirittura c'è stata, Google si è interessata alle favelas, che ha mappato intere favelas che circondano Rio de Janeiro. Quindi e San Paolo. Non solo più, ecco, le parti più famose turistiche di Rio de Janeiro, ma il fatto che Google e quindi Street View, questo strumento, vada anche nelle favelas, è come tirar fuori dall'ombra questi quartieri, quindi portarli alla luce e rendere forse anche gli stessi abitanti più consci e più vogliosi anche di migliorare il proprio tessuto sociale. Esattamente, le favelas, come tutti i quartieri di tutte le città del mondo, sono un corpo mobile dove c'è un'evoluzione sociale, delle derive di violenza, questo non lo vogliamo dimenticare né negare. Ciò detto, è importante ricordare che ci sono delle realtà persino imprenditoriali di una certa rilevanza. Ecco, ne vogliamo ricordare qualcuna di queste iniziative? Sì, ad esempio il presidente dell'Ocse, Javier Santiso, sì, in uno dei suoi report, Emerging Market Network, è un docente oltretutto al MIT, ha ricordato poche settimane fa che l'inventore di Kinect, che è un prodotto di eccellenza di Microsoft, è un brasiliano di Rio che arriva da una favela. E quindi, ecco, questo è l'episodio più eclatante e quello che forse destinato a suscitare l'interesse dei giornali. Ciò detto, ci sono tante piccole imprese, start-up, che magari non sono assurte agli onori della cronaca, che però sono diventate funzionali e hanno saputo integrarsi con realtà informatiche del paese, delle aree del paese, il Brasile in questo caso, più sviluppate e più attente all'innovazione. Certo Roberto, e poi leggevo, facevamo i nomi di Google, Amnesty International ha realizzato anch'essa un'applicazione Crossfire che dà possibilità ai cittadini di documentare e mappare ciò che avviene di negativo nei quartieri più poveri all'istante, proprio perché questo possa geolocalizzare nell'immediato fatti criminali e quindi aiutare anche le forze dell'ordine. Poi quindi dicevamo Google, Amnesty International, anche Facebook si è attivata, un progetto pilota per connettere gratuitamente gli utenti di Heliopolis, una delle più grandi favelas di San Paolo. Il programma è ancora in fase embrionale e prevede la copertura wifi veloce gratis per tutta la comunità della favela brasiliana, abitata da circa 200.000 persone, per cui parliamo di quartieri, Roberto, che praticamente sono delle piccole province, piccole città di provincia italiana per le persone che vi vivono. Assolutamente, stiamo parlando di dimensioni di una città piccola o media italiana, e va ricordato che molte favelas sono servite addirittura dalla metropolitana, quindi la metropolitana arriva ai piedi della favela, quindi è una componente del panorama sociale e urbanistico di Rio de Janeiro, così come di altre città brasiliane, in cui appunto oltre ci sono anche è stata sviluppata persino un'idea turistica, tanto che a Rio de Janeiro è facilissimo accedere a una visita guidata in favela. Qualsiasi albergo propone una visita guidata in favela con la possibilità di cenare o di pranzare in un ristorante, tutto questo in sicurezza. Questo appunto per ricordare quanto la favela non sia solo ricettacolo di violenza e di degrado, ma ci sia all'interno anche un, come dire, brodo di cultura che ha saputo generare non solo campioni dello sport, ma anche imprenditori che si sono inseriti nel contesto nazionale e internazionale più virtuoso. E poi Roberto, lo ricordavamo anche ieri, molte aziende, tra queste quelle italiane impegnate nelle Olimpiadi, al termine della manifestazione olimpica smantelleranno piscine o palestre che sono state e che sono utilizzate in questi giorni dagli atleti, proprio per destinarle ai quartieri meno ricchi della capitale. Quindi tanti esempi di aziende che intervengono in favore dei quartieri più degradati. Allora, ringraziamo Roberto Radin, collega del Sole 24 Ore. Per oggi è tutto. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, a Valerio Rocchetti e Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.